verso il vuoto dove nulla è l'assassino e le macchie del passato sono ombre piene. Non immaginavo il mio futuro in questo buco dove scavo a mani nude lacerate e brutalmente rattrappite. Scavo per levare dalle spalle questo mio bagaglio sfatto e fatto solo di avventure perse o di anime dismesse che ho indossato come scarpe trapassate. Con me credere che ce la farai.